Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. E buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben arrivati al Serpente Corallo, ben arrivati da Mauro Meazza, Stefano Elli e Marco Lo Conte. E cioè tre giornalisti del Sole 24 Ore che vi aiuteranno a identificare, a riconoscere i serpenti corallo. Perché cosa sono i serpenti corallo? Stefano, vuoi spiegarlo tu? Sono quelli che ti fregano, sono quelli che in apparenza sono tutti belli, gentili, carini e poi alla fine lo pagate caro questo. Perché il serpente corallo, Marco, è un po' una metafora. Ma sì, un'allegoria, una metafora, insomma. Allegoria. Allegoria per tutti. È sostanzialmente è quell'immagine di quel soggetto di cui ci fidiamo, a cui daremmo il nostro portafoglio in mano. Però poi scopriamo che questo serpente corallo ci dà la fregatura, ci truffa. È scappato col portafoglio. È scappato col portafoglio quando va bene. E allora noi di serpenti corallo ne incontriamo parecchi nel nostro lavoro e abbiamo ritenuto giusto e doveroso avvisare, mettervi tutti sull'avviso e insegnare un pochino a riconoscere i serpenti corallo. Perché i serpenti corallo, se li conosci, magari, non è detto, ma può essere, li eviti. Può Stefano? Essere, può essere che uno li eviti. Può essere. Allora, vi ricordo che questa trasmissione ha, come tutte le trasmissioni di Radio 24, una casella email per scriverci per posta elettronica, naturalmente, serpentecorallo@radio24.it. E come sempre partiamo con un caso della settimana, che è questa volta un caso abbastanza particolare di truffa. Stefano, ci vuoi segnalare un po' i capisaldi di questa vicenda che raccontiamo oggi? È un po' la questione, te la ricordi la puntata di Totò e la Fontana di Trevi? Ricordo abbastanza da vicino questa cosa, perché in realtà ci sono dei signori, dei consulenti finanziari che offrono dei lingotti d'oro ai risparmiatori, lingotti d'oro che sono, diciamo, l'emblema della sicurezza finanziaria. In realtà lo stesso lingotto lo vendono ad altre 100 persone. Un solo lingotto per tanti risparmiatori. Esatto. Ma com'è possibile? Ah, ma è interessante questa cosa. Mica lo sanno loro che sono in compagnia, sono in condominio. Ma chi se lo tiene? Io voglio capire questa cosa. Il lingotto viene tenuto dentro un cavò e al cliente viene offerta l'opportunità di andarlo a visitare, come si fa coi figli in collegio in Svizzera. Tutto questo avviene in Svizzera. Gli si dà l'opportunità, previo appuntamento con l'oro incaricato della società ovviamente, di andarlo a visitare una volta al mese, una volta all'anno. Se qualcuno vi ha offerto un lingotto di recente, state attenti, cominciate a sentire la scheda. Oro ultima frontiera. Che cosa c'è di più sicuro dell'oro? In momenti di grande crisi e incertezza finanziaria, l'unico investimento che non ha mai tradito è senza dubbio quello dell'oro. Non è affatto vero, ma se lo dice il consulente. E allora, che cosa c'è di meglio dell'oro fisico? In lingotti. Così l'investitore viene convinto da un consulente finanziario italiano della bontà dell'affare. Come lui, alcune centinaia di clienti si recano nella prestigiosa sede della società di Lugano, dove siglano il contratto che li vedrà entrare in possesso di uno o più lingotti di metallo prezioso. Ad asseverare il tutto, un certificato di proprietà in carta pregiata. I lingotti verranno custoditi a Lugano nel caveau della società e il cliente potrà fargli visita ogni volta che vorrà, previo appuntamento con un nostro incaricato. Quello che il cliente non sa è che lo stesso lingotto d'oro, sempre lo stesso, sarà venduto ad altre centinaia di persone. E la banda del lingotto, raggiunta una determinata quota di raccolta, chiuderà la società, cambierà il nome, traslocherà e ricomincerà ad operare altrove. C'è un ulteriore problema. Supponiamo che gli investitori italiani abbiano voluto regolarizzare il possesso di quei lingotti con la voluntary disclosure. Al danno, in quel caso, subentra la beffa: pagare sanzioni ed imposte per qualcosa che non si è mai posseduto. La voluntary disclosure, persino la voluntary disclosure entra in questa storia di lingotti, un lingotto in realtà, ma tanti proprietari ignari, ignari che appunto sono in condominio e non sono affatto da soli. È più o meno così, Stefano, giusto? Esatto, è questo. E allora vedremo anche perché ovviamente non è così semplice rivalersi nei confronti di questi signori che ti... così ti vendono, ti offrono questo investimento molto particolare che appare così solido, giusto Marco? È una questo sì. Un po' il fatto che il lingotto, cosa c'è di più solido, di più bello, di più luccicante? Eh sì, proprio quella cosa che ci acceca la vista, ma anche gli istinti di risparmiatori che perdono la Trebisonda, è il caso di dirlo, e cascano di fronte al metallo giallo e fanno delle cose che razionalmente non si dovrebbero fare, ma attenzione. Cosa succede? Succede che per la nostra rubrica hashtag ma come è possibile abbiamo realizzato un'intervista esclusiva con chi? Con colui il quale ha architettato tutta questa vicenda. Eh sì, ho paura di sapere chi è. Non vorrei che fosse quello che già... Quale? Quel Pipitone Broccoli. Pipitone Broccoli. Sentiamo l'intervista. Buongiorno. Buongiorno. Lei si chiama? Pipitone Broccoli. Pipitone Broccoli. Pipitone Broccoli. Ok. Esperto commercialista. Esperto commercialista. Perito. Perito. Revisore no. contabile. Revisore contabile. Notaio. No, notaio stia fermo perché io... In Svizzera possiamo fare tutto noi. Ah, ecco, in Svizzera potete fare tutte queste cose. Fiduciario. Anche. Beh, ci credo, ma la fiducia si conquista, caro signor Pipitone Broccoli. Ma io dicevo architetto perché, come dire, metaforicamente lei ha architettato questa vicenda che per alcuni è una truffa. Cioè lei ha fatto in modo che un unico lingotto finisse nella proprietà di tante persone. Ma scusi... Ma quale truffa è truffa? Scusi, non c'è truffa. Basta poi questa storia delle truffe, risparmiatore povero, tutti i risparmi di una vita inceneriti. Ma quale cosa? Ma quando? Ma guardi che c'è gente che veramente ci ha rimesso il lavoro di una vita, i risparmi suoi. Ma basta questa retorica del risparmiatore è un po' porco, un po' cino e un po' gazzaladra. No, insomma, intanto moderiamo un po' i termini, perché noi abbiamo un grande rispetto del nostro pubblico, dei nostri ascoltatori, e tra questi ci sono tantissimi risparmiatori. Non vorremmo mai che ci sia anche qualcuno che è rimasto imbiscato in questa vicenda, ma lei ha detto risparmiatore è un po' cinno? Cinno vuol dire bambino. È un po' bambino. Sì, un po'... cinno vuol dire che crede a qualunque roba, cioè tu li metti davanti una roba e ti hai detto tutto quanto. Però dipende da che cosa lei promette. Poi a questi porco, perché il risparmiatore non si butta via niente. Ho capito, questo l'avevo capito, credo che l'abbiano capito anche i nostri ascoltatori. Poi gazzaladra, perché appena vede qualcosa che luccica non capisce più niente. E lei l'oro l'ha fatto luccicare e li ha un po' imbrogliati. Li ho rassicurati. Ma come rassicurati? Li ho rassicurati perché anziché guardare le quotazioni tutti i giorni, stavano liberi, tranquilli, con la certezza di avere proprio oro nel cavò. Ma Pipitone Broccoli, l'architetto, dici tu, Marco, sì, che ha ideato tutta questa idea, a parte che non mi sembra originalissima, e poi non so, Stefano, è un'idea originale, mi sembra una cosa che in realtà si è già presentata nella storia del risparmio. Lo si è già visto, effettivamente, sì, lo si è già visto. Ma quello che colpisce è che la gente ci ricasca sempre. E questa è la cosa straordinaria che andremo proprio a investigare nel corso di questa puntata. Adesso ci fermiamo però per qualche istante. A tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Il serpente corallo. Senti, io sono italiano oriundo. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua. Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni te la capi. Ok, paesà. Complimenti, domani vieni al consolato americano e ti faccio trovare il contratto pronto e money! Con 10 milioni te la cavi, diceva Totò nell'imperdibile Totò truffa, e qui però invece la truffa è avvenuta sui lingotti, giusto Marco? Eh sì, perché i 10 milioni di quella fontana, quanto hanno fruttato al Pipitone Broccoli della situazione che abbiamo sentito poc'anzi? È proprio così, e allora... Bentornati a Serpente Corallo, bentornati da Mauro Meazza, bentornati ovviamente da Marco Loconte e Stefanoelli, ma chiediamo proprio a Stefanoelli, che ha raccontato questa vicenda su Plus, sul settimanale di Risparmio del Sole 24 Ore, che trovate tutti i sabati, ma com'è stato possibile, Stefano? Davvero c'è gente che, come quelli che si comprano la Fontana di Trevi, si compra il lingotto e, per così dire, s'accontenta di un certificato? Probabilmente c'è un retaggio culturale che vede l'oro al primo posto nella ricerca della propria tranquillità e del proprio benessere psicologico. Evidentemente a questo fa riferimento una serie di personaggi che, diciamo, frontalieri della truffa tra l'Italia e la Svizzera, organizzano queste, che non sono solo queste, questa dell'oro è una delle tante situazioni patologiche di cui ci siamo occupati, evidentemente. Perché c'è un po' questo fatto che l'oro luccica, Marco, tu che segui i temi di educazione finanziaria, poi ci torniamo meglio su questo aspetto, ma tanto per cominciare a dare qualche indicazione agli ascoltatori, c'è questo senso di solidità per una cosa che però in realtà non si possiede. Quello che si può ottenere è soltanto un pezzo di carta che uno si tiene a casa e, come ci ha spiegato Stefano nella prima parte della trasmissione, si può ogni tanto recarsi a fare visita al proprio lingotto, come il parente in una casa di cura, oppure il nipote in un collegio. Beh, diciamo che il certificato ha la funzione dell'avatar del bene rifugio, e forse questo a qualcuno basta. Poi spesso c'è anche un problema di patologia finanziaria, no? Perché se qualcuno gli dici: guarda, te li teniamo in Svizzera, non si deve sapere. Va bene, ma io vorrei capire come ci si può difendere da tutto questo. E allora abbiamo chiamato l'avvocato Filippo Cocco, che è in linea. Buongiorno, avvocato Cocco. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Grazie di essere con noi. Allora, ma come si fa a difendersi, se ci si può difendere, da una truffa di questo genere? Uno che ti piazza il lingotto, in realtà lo vende a te e ad altre 100 persone, ti dà un pezzo di carta. E se me ne accorgo, che posso fare? La miglior difesa è non cascarci, anche perché l'accortezza del non portarsi via dei pezzi di carta compromettenti tende a far lasciare il vostro certificato di deposito del vostro lingotto nelle mani del soggetto che detiene anche il lingotto. Quindi, avvocato, mi perdoni, lei ha seguito dall'inizio questo caso, può spiegarci un po' qual è stata la genesi di tutto? Guardi, la genesi che abbiamo conosciuto noi è quella di imprenditori che hanno aderito a delle proposte molto ben presentate di investire in quella che è stata chiamata impropriamente economia reale, cioè la vedi e la tocchi, no? E quindi non è un titolo, un fondo, un qualcosa di immateriale, ma è un bel lingotto che luccica, che è depositato, che è tuo in forza di un certificato di deposito e che puoi vendere ad altri che sono in Ah, quindi si profilava anche una sorta di mercato? Certo, puoi liquidizzarlo in tempo quasi reale, vista la richiesta. Questa è la proposta ricevuta, ovviamente, dall'imprenditore. Interessante. E poi, nel momento in cui decidi di andare a fare visita, come avete detto voi, o semplicemente di andare a dialogare per capire se ne puoi acquistare altro, se puoi vendere quello, è capitato a un curioso personaggio che, quando è andato in questa società, ha trovato una farmacia. Come una farmacia? per curare la gastrite, che probabilmente lo ha sorpreso. Non c'era più la società? C'era più la società, o forse si era trasferita, perché non avendo, poi ovviamente tu recapiti, non avendo estratti conti che ti vengono spediti a casa, no? Non avendo nulla, praticamente hai il ricordo del luogo e la persona con cui hai parlato, ma se quando vai c'è un'altra attività commerciale, fai come racconta di aver fatto questa persona, cioè di aver girato. È andato un po' in giro per la via chiedendo dove si erano trasferiti, ha preso informazioni per cercare di reperirli. Come è finita? Poi è finita nel suo studio, poi? Con il suggerimento di recarsi all'autorità giudiziaria e ovviamente elvetica e di raccontare il fatto. E questi hanno aperto da qualche altra parte l'attività? Pare di sì, pare che poi migrino con frequenza da un posto all'altro e quindi poi se li ritrovi sorridenti probabilmente ti fanno vedere, come ha raccontato questa persona, che il tuo lingotto è sempre lì e che sei stato solo sfortunato a non sapere del trasferimento. Senta, avvocato, ma mi spieghi un po', ma se questi personaggi poi in seguito volessero aderire alle sorte di condoni, di scudi fiscali, voluntary disclosure, come la mettono? Diciamo che se le somme sono lecite non c'è problema e non hanno bisogno di sanatoria, ma se le somme non lo erano e oggi tu vorresti regolarizzare quell'investimento, sarebbe esclusivamente una spesa, nel senso che paghi ovviamente l'aliquota prevista dalla norma, ma poi non rientri del tuo investimento perché l'hai perso. Va bene, avvocato. Salvo che tu non abbia ovviamente il lingotto. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, avvocato. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie, avvocato Filippo Cocco. A presto. E allora io direi che la morale potrebbe essere quella di non accettare lingotti dagli sconosciuti. Cosa dici, Marco? Ma dico che secondo me c'è una doppia complicità in questo caso, perché qui c'è un aspirante evasore fiscale che volendo infrangere la legge poi si presta a essere truffato, e questo è il tema di fondo. Ma c'è un'altra complicità. Quindi ci sarebbe anche un aforisma su questo. C'è un aforisma? Hai un aforisma, Stefano? Prego. Certo. Agevoliamo l'aforisma. Chi è causa del suo mal, pianga nel cesso. Ah beh, sicuramente. Grazie, sicuramente. Magari mettiamo un po' di musica dei Chapter 11, che poi siamo sempre noi, così ci fermiamo un attimo e recuperiamo da questo scadimento che ci sta prendendo tutti quanti. Il mio bancario è un consulente. Lui mi risponde di domenica, risolve tutti i miei problemi senza neanche far la predica. Il mio bancario è il confidente di quasi tutti i miei segreti, mi amministra le sostanze senza tante formalità. E non c'erano proprio formalità in questo caso, ma c'era anche un po' qualcos'altro oltre all'assenza, sì, di formalità, vero Marco? Perché... Sì, perché poi, io dicevo, c'è una questione di complicità con i truffatori, perché uno vuole evadere il fisco e quindi si lascia il destro alla truffa, però c'è una complicità perché nei confronti di se stessi, insomma, se invece di impiegare le proprie forze nel fregare il fisco e poi farsi fregare, ci si dedicasse un po' di più a capire come funzionano i mercati finanziari, come migliorare la propria educazione finanziaria, questo non accadrebbe, perché in questo modo, soltanto prevenendo, facendo azione di prevenzione alle truffe, è possibile salvaguardarsi. Per questo io chiamerei in causa uno psicologo. Oh, molto bene, perché ci sono gli aspetti psicologici. Assolutamente sì, perché saluto il professor Paolo Legrenzi. Buongiorno Legrenzi. Buongiorno a voi. Professore emerito all'Università Ca' Foscari di Venezia, perché qui il tema è bisogna prevenire le patologie finanziarie come queste. Ma la domanda è: cosa scatta nella mente di un risparmiatore che rischia di essere truffato quando vede sbarluscicare, permettetemi il termine, dell'oro? Il tema è molto interessante perché tutti questi casi, che sono delle varianti di illusionismo, magia, in questo caso truffaldine, si appoggiano su meccanismi cognitivi, cioè sul funzionamento normale della nostra mente. I tre tipi di meccanismi che sono coinvolti qua è l'attenzione, uno non sta attento alle cose giuste, come con i maghi e gli illusionisti, l'emozione, i soldi, quindi sesso, soldi e salute sono tre buoni campi per le truffe perché sono emozionanti. E certo. Ovviamente. E poi qui c'è un fattore aggiuntivo buono per il truffatore, a favore del truffatore, è che uno poi si vergogna di essere stato truffato. Dissonanza cognitiva o no? Non c'entra niente. Si c'entra, nel senso, in certo qual modo, che vuole giustificare a se stesso il perché è stato truffato. E quindi dice senso, colpa loro, colpa di trovare consonanza. No, allontana da sé questo amaro calice. Sì. Sì. Allontana da sé l'amaro calice perché se ne vergogna. Questa è una grande fortuna delle truffe e dei truffatori finanziarie e anche quelle sulla salute. Cioè tu prendi una medicina che è acqua fresca, credi che sia buona e dopo però te ne vergogni. Però nel caso dei soldi di più, perché Tra l'altro c'è tutto il fatto dell'evasione, quello che avete voi evocato, che l'avvocato Cocco ha così bene evocato. Quindi, diciamo così, per evitare questi rischi, che cosa bisogna fare? Io citavo l'educazione finanziaria, che è un processo, anche forse anche, diciamo, non particolarmente eccitante, però aiuta a preservare il nostro denaro da questi errori. Occorre, oltre che leggere il Sole 24 Ore, insomma, cercare di capire come funzionano le cose senza cercare scorciatoie? Beh, sono stati studiati molti negli Stati Uniti coloro che sono stati truffati. Non sempre, come ha detto Visco nel suo ultimo libro pubblicato dal Molino, l'educazione finanziaria è sufficiente. Le persone che venivano ingannate in Stati Uniti da questo grande truffatore che ha fatto una versione in grande che è durata 26 anni dello schema Ponzi, in realtà erano persone colte anche, certo. Però anche la persona colta riesce a cadere nella trappola, sto parlando del caso Madoff, Ponzi è quello che l'ha inventato per la prima volta, merito di un genio italico, più di 90 anni fa, può cadere in questo tipo di trappola, perché sono difficili da scoprire, anche nella misura in cui a uno non le vuole scoprire, è contento di questo. Difatti, se voi guardate, ci sono dei domini preferiti per le truffe, come certo. Dicevo, legati al sesso, ai soldi e alla salute, dove uno può perdere la testa, lei non riesce a fare, lo stesso meccanismo cognitivo per la truffa non funziona altrove. Allora, professore, facciamo così, torniamo a sentirci prossimamente, perché su questi argomenti ne avrei di domande da fare al professore. Ma c'è la casistica grandissima, veramente molto vasta da indagare. Per oggi la ringraziamo e ci fermiamo qualche istante. Torniamo tra poco col Serpente Corallo. Il Serpente Corallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati al Serpente Corallo, la trasmissione che non solo vi spiega cosa sono i serpenti corallo. Cosa sono i serpenti corallo, Marco? I serpenti corallo sono quelli che ti danno la fregatura, quelli che si presentano come bravi, simpatici, truffatori, e poi sono dei truffatori, però ti danno la fregatura, bisogna stare attenti. E allora la nostra trasmissione è fatta proprio per mettervi sull'avviso, per insegnare magari, se possiamo, a riconoscere il serpente corallo che può annidarsi ovunque. Alligna. Dico bene, Stefano? Alligna. Alligna. Dove? Alligna. Perché dove? Il serpente corallo effettivamente alligna. Alligna spesso, abbiamo capito, dove ci sono i soldi soprattutto. Lì proprio ci sono delle sterminate piantagioni di serpenti corallo. E allora, per cercare di trarre un insegnamento da tutto questo, io lancerei la nostra rubrica de Il risparmiatore maleducato. Sigla. Il risparmiatore maleducato. Allora, il risparmiatore maleducato è la rubrica di Marco Loconte. Eccomi. Buongiorno qua. Marco. Buongiorno. Bene arrivato. Ero qua già prima, però va bene lo stesso. Buongiorno a tutti. No, nel senso che non eri qua come esperto di educazione finanziaria. Quindi mi devo rivestire. No, va bene, stai lì come sei, però bene. Il senso è che il risparmiatore maleducato è un libro che tu hai scritto, sì, per i tipi del Sole 24 Ore. I tipi, sì. Sì, è una cosa ricercata, non significa i tipi come adesso si dice tipo, no, sì. I tipi del Sole 24 Ore. Hai scritto questo libro, Il risparmiatore maleducato, che vuol dire che dice le parolacce. No, beh sì, poi le dice perché sbaglia a gestire il suo denaro. Ma perché sbaglia a gestire il suo denaro? Perché non ha un sufficiente livello di educazione finanziaria, cioè di conoscenza, competenza e abilità nel gestire il proprio denaro. Fantastico. E tra l'altro noi italiani siamo particolarmente indietro nell'educazione finanziaria. Siamo penultimi a livello OCSE, soltanto davanti alla Colombia. Gli altri proprio ci stanno molto... Cioè i colombiani ne sanno più di noi? No, ne sanno meno di noi. Però a livello internazionale, se prendiamo anche i paesi africani, ci sono tanti paesi africani che sono messi meglio di noi. Il Kenya, per esempio. Il Kenya? Il Kenya. Io ho letto in una statistica che praticamente solo un italiano su tre ci capisce qualcosa, qui esatto. Noi siamo in tre e speriamo che sia tu quello che ci capisce qualcosa. Perché... Quindi regolatevi e di conseguenza il tema è proprio questo. E allora Marco, visto che tu ti occupi di finanza comportamentale, educazione finanziaria, com'è possibile possibile? Com'è possibile? Qual è la sindrome? Qual è il malanno che fa sì che un risparmiatore resti abbacinato dal lingotto, un lingotto che non può tenere con sé, gli danno solo un certificato, deve andare a fargli visita chiedendo prima il permesso e un appuntamento. Ci sarebbero tutte le caratteristiche per avere quantomeno dei sospetti. E invece il risparmiatore resta, come possiamo dire, abbagliato dall'oro. Il professor Legrenzi poco fa ci ha già tratteggiato, diciamo, il profilo psicologico del truffato e del truffando, mi verrebbe da dire, cioè di chi, insomma, è vulnerabile alla truffa. Il punto è, io aggiungerei però questo elemento, perché l'oro fa scattare nella nostra mente tanti elementi emotivi, no, che sono, dicono quelli bravi, subcorticali, per esempio. Subcorticali. Ho capito. La corteccia cerebrale sotto l'albero. No, cioè sopra la corteccia cerebrale e sotto la parte limbica. Subcorticale. Parliamo del cervello. Va bene, non importa, Marco. Subcorticale. Vabbè, insomma, l'oro ti evoca la preziosità, il bene rifugio, i gioielli della nonna, queste cose qua di grande valore, no? C'era poi mica quello che il re che toccava le robe che diventavano tutte oro. Mida. Mida. Il re Mida. Proseguo. Il tema è che l'oro poi è, diceva anche l'avvocato Cocco poco fa, il bene reale, l'idea del bene reale ti fa perdere un po' la Trebisonda. In realtà i beni immateriali, cioè i titoli di Stato, i titoli azionari, non si toccano, però sono di fatto più concreti di tante fole che alcuni spregiudicati individui ci mostrano. Il contante è bello da però toccare. Qui c'è proprio dietro, qui c'è proprio dietro una sindrome, secondo me, no? Una sorta di, come li chiami tu? I trigger, cioè? Il trigger è l'innesco in inglese, cioè quel gialli. Meccanismo, quale? Gialli. I gialli. I trigger. Quello di Michael Jackson. Quello è il Thriller. Stefano, segui quello che sta dicendo Marco e non disturbare. Prendi però degli appunti, magari. Lui, cioè, secondo me lui non è che fa fatica a seguire, lui è troppo avanti, perché in effetti poi diventa un thriller tutto ciò, vero? E quindi è l'artista che è avanti alla cronaca. Non perdiamo di vista il trigger. Qual è la cosa che ti fa perdere la Trebisonda? In questo caso il trigger è l'overconfidence, cioè l'eccesso di sicurezza nelle proprie capacità. Che è poi quella che anche colpisce i trader online, che pensano a volte di essere molto molto esperti e scafati e furbi, giusto Stefano? Eh sì, perché gli danno in mano, no, due elementi tecnici e si credono... Testa a spalle, resistenza, investo, leva due. Questo è un classico esempio di trader online all'opera. Proseguiamo con l'overconfidence, Marco. Ma l'overconfidence è questo, insomma, uno crede di saperne. È una distorsione molto diffusa che riguarda sicuramente chi crede di gestire dei rischi importanti, no? Gestire i mercati facendo il trading online, muovendo i propri soldi e, Dio non voglia, anche quelli di altre persone sui mercati minuto per minuto. Ma l'overconfidence, in realtà, provate a pensare ad altri contesti, la guida, se uno beve e dice vabbè, mi metto lo stesso in macchina, attenzione, non a caso ci sono delle regole, delle leggi che ti scoraggiano, anzi ti multano salamente. In modo salato? Salato. Diciamo salacemente, non importa. Il punto è che l'overconfidence è anche lì molto perfida, perché a volte non colpisce soltanto chi vuole rischiare, ma anche chi vuole essere prudente. Per esempio, un sondaggio poco tempo fa aveva registrato come il 90% degli italiani si dice di avere dimestichezza con i titoli di Stato, no? I BOT, i BTP, CTZ, CCT, insomma, quelli che sono storicamente strumenti prudenti, difensivi. Certo. Infatti, da sempre, insomma, gli italiani hanno messo i propri soldi in titoli di Stato e hanno cercato di così proteggere il proprio portafoglio con un po' di rendimento. Ma invece cosa ha rivelato il sondaggio? Poi alla domanda, ma sapete come funziona un titolo di Stato e in particolare il rapporto tra prezzo e cedola? Bene, soltanto l'11% è stato in grado di fornire le risposte. Ma come? Proprio l'elemento cardine del titolo di Stato, credi di saperne e poi non ne sai per niente. Non ne sai nulla. E va bene, allora, questo è l'overconfidence. Attenzione all'overconfidence che può colpire chiunque. Io adesso, guarda, mi fermerei un istante e farei sentire un po' di musica. Casualmente la musica dei Chapter 11, Non so se abbiamo detto chi sono i Chapter 11. Chi sono i Chapter 11? Ah, siamo noi i Chapter 11, è vero. E allora ascoltiamo proprio un piccolo estratto del brano che dà il titolo a questo programma, Il Serpente Corallo. Lungo la via per Mazara del Vallo ho incontrato un serpente corallo che strisciava sulla battigia trascinandosi una valigia. A un paio di metri, poco distante, seguiva un crotalo tintinnante e più in là, a fare da ronda, un terzo serpente, tipo anaconda. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. E questo era un piccolo estratto del Serpente Corallo eseguito dai Chapter 11, che poi siamo sempre noi. Marco, mi sembra di capire che allora l'overconfidence, per riagganciarci a quello che dicevamo poco fa, sia proprio il Serpente Corallo medesimo. È tipico, perché tu ti aspetti di rischiare troppo magari investendo in azioni, e invece ti rendi conto di fare delle sciocchezze anche quando vuoi essere prudente. È lì che si annida il serpente corallo, si nasconde e ti frega laddove non te l'aspetti. Molto bene, e allora veniamo a un'altra delle nostre numerose, numerosissime rubriche, e cioè alla rubrica di cui sono molto molto orgoglioso, e molto, che è molto. Comma profondo. Possiamo mettere la sigla? Comma profondo. E allora, comma profondo, perché i serpenti corallo, come sappiamo, si annidano ovunque, si annidano anche ovviamente nella Gazzetta Ufficiale, come potrebbe essere altrimenti. Allora io oggi, cari ascoltatori, caro Marco, caro Stefano, vi vorrei annunciare la specie del comma superfluo. Come? Il comma superfluo non è il comma inattuato, il comma inattuato sta dovunque, tu basta che tu apri la Gazzetta Ufficiale e ne trovi quanti ne vuoi di commi lasciati lì così a far la muffa. No, superfluo, cioè che è proprio assolutamente inutile. A volte il comma superfluo dice di fare una cosa che già un altro comma prima aveva detto di fare, magari un sacco di tempo prima. Cioè, adesso io non è che sia esperto come Marco, ma è come la sindrome che ti colpisce, sei per strada, avrò chiuso il gas, torni indietro per controllare. E deve essere quella cosa lì. Ecco, il comma superfluo fa un po' la stessa cosa. Guarda, è successo, io ne ho rintracciato uno. Ne ho rintracciato dentro. Io sono curioso, me la racconti bene questa guarda, cosa. Allora, l'ho rintracciato nel codice della strada, però io non ti consiglio di avventurarti nel codice della strada senza una guida, perché è una foresta di commi anche pericolosi. Ci vuole un esperto. Ci vuole un esperto che ti prenda per mano, un Virgilio che ti guidi in quella selva oscura. Ebbene, questo testo, tra l'altro che può vantare centinaia di modifiche di scrittura, a un certo punto in questo testo una legge, la legge 120 del 2010, dice che a scuola, nelle scuole di ogni ordine grado, compresi gli asili, bisogna fare l'educazione stradale. Guarda. Una cosa sacrosanta. Bellissimo. Avete qualcosa in contrario? Assolutamente no. E infatti, ma neanche le scuole ce l'avevano, perché questa cosa del 2010 li avevano già detta nel 92, nel 1992. Cioè un'altra legge che imponeva. C'era un comma che diceva esattamente la stessa cosa. E anzi diceva, e quindi entro 180 giorni qui bisognerà fare un decreto appositamente. E l'hanno fatto? E no, perché c'era già, l'avevano già fatto nel 92. Ma non si elidono? No, non è che si elidono, il comma resta lì anche un pochino dispiaciuto, secondo me. Secondo me sì. Cioè, mettiti nei panni di questo comma superfluo. Due affermazioni negano, due negazioni affermano. Ma secondo me quello più arrabbiato è il primo comma. Il primo comma si è sentito un po' negletto, io credo. Scusami, ma ci sono già qui io. Comunque gli ha anche detto, secondo me ha chiamato l'altro comma, quello del 2010, quello di 18 anni dopo, gli ha detto, Giovanotto, guarda che il decreto, quello che ho chiesto io, non tu che sei arrivato adesso, buon ultimo, il decreto l'hanno fatto nel 94, quindi non è che l'avevano fatto proprio il giorno prima, però tant'è, insomma, il decreto prevede giustamente. Comunque negletto non si dice, è politically incorrect. Negletto? Negletto. Non ti piace? No. E insomma, trascurato, è stato trascurato. No, ma era una battuta, però io andrei oltre anche in questi casi ogni tanto, gli aforismi sì, le battute no. Li lasciamo cadere. Sì. Allora, perché? Ma perché io vi ho raccontato tutta questa storia di questo comma del codice della strada? Sì. È perché adesso io devo dire la parola che in qualche modo mi ha reso, se posso azzardare, famoso tra gli ascoltatori di Radio 24. Fai un bel respiro, fai un bel respiro. Prendo bene il respiro, mi posiziono adeguatamente davanti al microfono e finalmente pronuncio la fatidica parola. Signore e signori ascoltatori del Serpente Corallo, traffico! Il Serpente Corallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Bentornati, bentornati all'ultima parte del Serpente Corallo. Siamo qui per scoprire questa volta non tanto un serpente corallo che già c'è, ma per esaminare una novità, un qualche cosa che potremmo aver capito, ma anche noi, io ad esempio di questa cosa che andremo a esplorare non ho capito ancora nulla, e vedere se per caso lì non si nasconde un serpente corallo. Ma Stefano, tu volevi dire qualcosa? No, c'è stato un grave incidente sulla Brebemi, ci sono 18 metri di coda. Vabbè, questa è una stupidaggine non che... Non è vero. Allora... Questa ultima parte noi potremmo chiamarla il trova corallo, ma per trovare il potenziale serpente corallo abbiamo chiamato un ospite, un collega, è venuto qui a trovarci, Pierangelo Soldavini. Buongiorno Pierangelo. Buongiorno a tutti. Allora, Pierangelo, che è, oltre che essere vice caporedattore del Sole 24 Ore, segue anche le pagine di Nova, ogni domenica le pagine dedicate alla tecnologia, all'innovazione che trovate sul Sole 24 Ore, e è la persona ideale e forse riesce a spiegare persino a me che cos'è il Bitcoin. Ma se me l'avessi detto te l'avrei portato qui in trasmissione, così te l'avrei fatto vedere anche agli ascoltatori, tanto è una cosa che non esiste, quindi ecco, non si può vedere. Già questo mi ha confuso, io vorrei capire. Marco, tu sai esattamente cos'è un Bitcoin? No, esattamente non lo so, è una di quelle cose che mi sono sempre ripromesso di approfondire, mi sono detto devo chiederlo a Pierangelo e quindi colgo questa occasione unica, direi. E tra l'altro segnaliamo a tutti gli ascoltatori che proprio oggi su Plus, che è in edicola con il Sole 24 Ore, c'è un'intera pagina dedicata alle criptovalute e al Bitcoin, con anche le parole chiave, una serie di domande, e potete perciò integrare quello che sentiremo adesso da Pierangelo Soldavini con quello che potrete invece leggere su Plus con il Sole 24 Ore. Allora Pierangelo, abbiamo capito che il Bitcoin non si può toccare, non si può mettersi nel borsellino un Bitcoin. Devi avere un borsellino particolare. Cioè un borsellino? Deve avere un borsellino elettronico, perché il Bitcoin è una moneta virtuale, una valuta digitale che è fatta quindi per sua natura di bit, quindi di qualcosa che è irreale, inconsistente. Ma ci sono le bit banche dei Bitcoin? Ci sono, ti dicevo, dei borsellini elettronici, ma non ci sono banche, perché il sistema è nato proprio in un modo assolutamente aperto, senza nessuna autorità centrale che emette queste valute. Noi siamo abituati ad avere in tasca dei soldi che sono delle convenzioni, perché non hanno un valore di per sé. L'euro che abbiamo in tasca, se noi andassimo in un posto che non conosce gli euro e non ce le riconosce, avrebbe valore zero. Ce le riconosce il negoziante, l'amico, perché è una convenzione. Non sono più le vecchie monete fatte di oro, di argento o che comunque erano convertite. Che avevano un valore per il valore intrinseco del metallo. Del metallo, oppure potevano essere, fino al 71, potevano essere convertiti in oro. Sì. I dollari potevano essere convertiti in oro, per cui noi andavamo... C'è stato Robin Hoods. Bretton Woods. Però Stefano, adesso che sto capendo, per piacere, non distrarlo, non distrarlo, perché... Ma ci sono, se non ci sono le bit banche, ci sono i bit risparmiatori? Ci sono i bit risparmiatori, quello è un altro aspetto. Okay. Cioè ci sono degli investitori in bit. Okay. Fammi spiegare, perché sennò facciamo passaggi troppo rapidi e l'ascoltatore si perde per me, un po'. Sì, grazie. Ascoltate, grazie. Ecco, Mauro è l'archetipo dell'ascoltatore, quindi sta seguendo. Quindi dicevamo, la moneta è qualcosa, è una convenzione. Il Bitcoin è una convenzione particolare perché ha un sistema di emissione assolutamente autonomo. Non c'è nessuna banca centrale che l'abbia emesso, c'è un signore che ha distribuito questi bit in rete, che sono programmati per uscire da qui al 2024. Sono una quantità che varia e dovrebbe tendere a 21 milioni di Bitcoin, quindi sappiamo che saranno quelli e basta. Cioè, saranno sfornati 21 milioni di Bitcoin da qui al 2024. Una quantità tendente a 21 milioni. Ogni giorno sfornati si fa per dire, saranno messi a disposizione in rete, perché a disposizione in rete e sono nascosti nulla in rete. Per andarli a trovare ci vuole un'enorme capacità di calcolo informatico e dei software molto costosi, per cui c'è gente che ci impiega del tempo per andarli a scovare. Evidentemente perché per certi versi può valer la pena. Detto questo, questi signori che si chiamano minatori, perché la metafora è proprio della miniera che vanno a scavare, vanno a recuperare questi Bitcoin, sono quelli che tengono in piedi tutto il sistema, perché quando tu ti scambi i soldi, io ti do 5 euro, sono fisici, te li ho dati. Quando in banca fai un bonifico di una certa somma, non dai direttamente dei soldi, ma la banca li va a prelevare dal tuo conto, certifica che ci siano effettivamente quei soldi, che siano effettivamente tuoi, li passa a un altro signore e certifica, l'altra banca certifica che quel signore sia esattamente il destinatario di quei soldi. E fin qui ho capito. E questo è quello che succede. E questo, tutto questo processo, però, di cui noi non ci si rendiamo conto, costa. I Bitcoin, quando tu lo compri, mettiamo che io ho un Bitcoin, lo voglio passare a te, sì, io te lo trasferisco, do un comando informatico, te lo trasferisco. In rete ci sono delle persone che vanno a certificare esattamente quel passaggio in cambio di qualche Bitcoin, e quindi nessuno fa niente, non c'è una banca che certifica, la certificazione avviene attraverso la rete, attraverso questi signori che fanno questo mestiere, e tu ricevi questo Bitcoin, e che è un blocchettino digitale in cui c'è scritto tutta la storia di quel Bitcoin, e tu sei sicuro che quel Bitcoin era mio ed è passato a te e non può essere duplicabile, non può essere falsificabile, è sicuro. Si chiama criptovaluta perché il sistema è coperto da crittografie molto sofisticate. Quindi è cifrato come una banconota che ha un numero di serie, però è tutto digitale. È un blocco digitale, non è cifrato. È un blocco digitale, e il sistema, la tecnologia che c'è dietro si chiama blockchain, la catena di blocchi, proprio perché questi minatori fanno una sorta di enorme libromastro di tutti i Bitcoin che ci sono in rete. Ma quanto può valere un Bitcoin, Tirangelo? Questa è dura da valutare, perché è partito che valeva zero praticamente. Quando il signor Nakamoto nel 2009 ha inventato questa cosa, valeva zero. Nel 2010 c'è un signore che... Ma quello dell'Inter? No. Stefano, ma guarda, mi devi distrarre, perché io sto anche prendendo degli appunti. Sì, così, però guarda che Stefano arriva prima, guarda, non trascuriamo quello che dice Stefano, perché lui arriva prima e un giorno questa frase avrà un senso. Prego, cioè compreranno l'Inter in Bitcoin, compreranno l'Inter in Bitcoin. Guarda, siamo molto vicini. È che dopo diventa tutto virtuale anche lo scudetto. Scusami, sì. Pierangelo, allora, dicevo, pazienza. Nel 2010 c'è un signore che ha comprato due pizze con 10.000 bitcoin. Oggi si mangia un po' le mani, perché 10.000 bitcoin valgono oggi 22-24 milioni di dollari. 24 milioni di dollari. Va bene, Pierangelo, la domanda cruciale è questa. Dov'è il serpente corallo qui dentro? Dov'è la fregatura? Dove potrebbe essere? È che, come sempre, su questi sistemi interviene la finanza, interviene la speculazione, e quindi c'è gente che ci guadagna. Da zero è arrivato a 2002-2008, arriverà anche più avanti, più a valere molto di più. C'è chi dice che nel 2030 varrà 500.000 dollari un bitcoin, perché è finito, la massa monetaria è finita, però il rischio grosso è che, non avendo dietro una banca centrale, uno Stato, nessuna banca, quello stesso bitcoin che oggi vale 10.000 dollari, domani potrebbe valere zero. Scusa la domanda, sono un po', diciamo, una mentalità da cacciatore di serpenti corallo, ma così, spiegata così, sembrerebbe un modo molto favorevole per il riciclaggio. In effetti finora è stato utilizzato e accusato di essere usato sostanzialmente per il riciclaggio e per traffici illeciti, armi, droga, perché è assolutamente anonimo, perché dietro a quel borsellino elettronico che tu hai si potrebbe nascondere chiunque. Posso nascondere io, Pierangelo Soldavini, può nascondersi Matteo Messina Denaro. Ma quello che chiamano il deep web, potrebbe, cioè il, beh, quella sì, è un'altra cosa. C'era il famoso, aspettate, state correndo troppo per me che sono un ignorante. Deep web, cioè il web profondo, la rete profonda, il cripto web. Il web profondo è quel oceano di web che è nascosto sotto il web normale, quello che vediamo noi, dove si comprano, dove armi, si compra di tutto, si può trovare di tutto. Era diventato famoso un marketplace, un sito che era Silk Road, la strada della seta, dove venivano appunto scambiate cose, si poteva trovare di tutto, appunto da droga, armi, cose rubate, così. E a un certo punto è stato chiuso dalle autorità federali americane, e lì sostanzialmente gli scambi, proprio per essere anonimi, venivano fatti con Bitcoin. Ma più banalmente, quando 2 settimane fa c'è stato il virus che ha attaccato tutte le aziende in giro per il mondo, i riscatti venivano chiesti in Bitcoin. Eh sì. Perché così era anonima. Pierangelo, come si fa a capire quanto è quotato, quanto vale al momento un Bitcoin? Se oggi, un ci giorno sono, qualsiasi, io volessi saperlo. Ci sono saperlo. Delle piattaforme in rete dove viene quotato il Bitcoin. Ogni giorno. Uno dei più famosi è CoinDesk, che è quello un po' più riconosciuto, e ha semplicemente la funzione di piattaforma di scambio e di senza nessuna responsabilità. E come faccio, se voglio investire in Bitcoin, al di là che... appunto tu ci hai detto, attenzione, potrebbe esserci il serpente corallo, nel senso che potrebbe essere oggetto di speculazione, e la sua natura di criptovaluta, come l'hai definita, effettivamente sembra prestarsi sembra esporla, meglio che prestarla, più alla speculazione, o no? Sì, senz'altro sì, ecco, lì scinderei un po' la parte finanziaria, che è quella, la sovrastruttura che viene creata a livello speculativo attorno a questa moneta, dall'effetto reale, dall'utilizzo reale che viene fatto, per cui può essere utilizzata come moneta per comprare delle cose. Anche in Italia ci sono degli negozi, degli studi professionali che accettano Bitcoin ormai comunemente, per cui si può pagare degli oggetti, dei beni in Bitcoin, ma la tecnologia viene utilizzata, il Bitcoin viene utilizzato anche per tutta una serie di altre cose. Per esempio c'è una startup che ha messo insieme un registro dei diamanti basato su Bitcoin, sulla blockchain, su questa tecnologia, perché così garantisce tutta la derivazione di tutti i diamanti. C'è il problema dei diamanti illegali che arrivano da posti, da traffici illeciti, da furti, così. Con questo sistema si cerca di arrivare pian piano a un sistema che garantisca la trasparenza. Grazie Pierangelo. Grazie. Prego, Marco. Io ho capito tante cose che adesso ho capito, adesso che mi ero messo da parte i libri, i giornali ritagliati, però finalmente sono riuscito a capire cosa succede prima che nel deep web, anche nelle blockchain dei Bitcoin. Stefano, anche tu, per i miei gusti parlate troppo in inglese. Siamo troppo in inglese, anglofofo. No, io non ho capito niente, ho capito poco. Hai capito poco. Qualche cosa. Poco. Vabbè, io ringrazio lo stesso però Pierangelo, perché lui davvero ce l'ha messa tutta. Sono contento che Stefano abbia almeno qualcosina. No, ma adesso poi lo facciamo ripassare, guarda. Noi ti ringraziamo. Ringraziamo soprattutto per tutte le spiegazioni che ci hai dato. Allora, attenzione, non è detto che il Bitcoin sia un serpente corallo, ma attenzione, perché potrebbe nascondere al suo interno da qualche parte il serpente corallo. Quindi prudenza come sempre, e soprattutto ascoltate il serpente corallo, la trasmissione di Radio 24 che vi dice come riconoscere i serpenti corallo. E allora, grazie Pierangelo, grazie per essere stato con noi. Marco, vuoi dire qualcosa in conclusione? Ci sentiamo settimana prossima, buona estate a tutti. E Stefano, potresti dire dove possono scriverci se hanno voglia? Ti ricordi la casella postale della trasmissione? Ma no, via Tertulliano. Allora, se volete scriverci, serpentecorallo@radio24.it. Buona giornata, buon proseguimento a tutti, ci si sente settimana prossima. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ma quando sei bello, serpente.